che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come quei caratteri delle vie più ruvide. Come l'acqua del Trentino, se la bevi alla fontana, veri come il vino al giglio e santi come una puttana. Ma adesso siamo dentro un forse, nell'incertezza degli ormai. Io storto con i miei momenti sporchi e tu così pulita senza guai. E ti perdo, ma tu questo già lo sai. Non lo so se sia giusto lasciarti andare mentre l'amore scompare. E tu mi dici ti odio e non ne posso più. Ma lascio dentro un po' di te per un domani che non c'è. Anche se grido ti odio, e l'hai voluto tu. Ci siamo vergognati a darci schiaffi nella notte, a urlarci tutto quello che non si può dire, per poi finire da ubriachi a far l'amore un po' più forte. E non c'è niente, niente che ci faccia stare meglio. Siamo inciampati dentro un forse, c'è troppa sete senza di te. E ti perdo anche se non ti perderei mai. Non lo so se sia giusto lasciarti andare mentre l'amore scompare. E tu mi dici ti odio e non ne posso più. Ma lascio dentro un po' di te per un domani che non c'è. Anche se grido ti odio, ma è con te. Se sia giusto fermarti o lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.